prendo come la Carrà. Non faccio più la brava, sono bad. È colpa del rap, acchiappo tutto, pure i sogni li rimetto nel cassetto. Mi prometto che domani, giuro, poi la smetto. Poi mi sveglio in questo letto, cancello frasi col bianchetto. La voce nell'orecchio dice: il grillo parlante ci va pesante. Dice che non sarò da esempio, non sarò mai una ragazza vera. Dillo pure a Geppetto, forse presto o è tardi. Qua fanno bene i cauti. Sto fuori e vivo sulla luna come gli astronauti. Sfogo per vendicarmi degli sbagli degli altri. La vita è un parco, amore estremo come Sid & Nancy. I miei sbagli domani pagherò, anche se sarà tardi, non so se ci sarò. Dovrei seguire gli altri, ascoltare i grandi. Se sarà tardi, poi ci penserò. Ci penserò domani, domani, domani. Ci penserò domani, domani, domani. Ci penserò domani, domani, domani. Domani è un altro giorno, è un altro giorno. Oh, oh. Domani è una parola troppo grossa, ma è pur sempre nostra. Se ci penserò domani, dimmi quanto costa. A scuola danno lezioni, le istruzioni di vita. No, intanto la luna si guarda le stelle e ci deridono. Ho troppo da fare, la vita è una sola. Io troppo favolosa per passarla ora tutta da sola. Capisci, voglio vivere, sorridere con il mio simile. La vita è una torta da dividere, lascio le briciole. Forse è come un libro, sto studiando per gli esami. Non voglio barare, ma sti casi umani sono strani. Se siamo nati per fare i bravi, perché sbagliando impari? E le tentazioni sono più buone delle buone azioni. Domani scritto 365 volte sull'agenda. Non morirò mai, come domani è una leggenda. Se mi sbagli domani pagherò, anche se sarà tardi, non so se ci sarò. Dovrei seguire gli altri, ascoltare i grandi. Se sarà tardi, poi ci penserò. Ci penserò domani, domani, domani. Ci penserò domani, domani, domani. Ci penserò domani, domani, domani. Domani è un altro giorno, è un altro giorno. Oh, oh, oh. Me ne frego delle voci, del gossip che ci faccio. Sto sulla bocca di tutti, come la fellazio. Come fossi sto cazzo, qua di spazio ce n'è poco. Quindi fotto il mondo e partorisco uno nuovo. Un gioco d'azzardo, dite ne banco. Il diavolo mi affianco e mi sta già sussurrando. Passa tutti gli assi sotto banco. La vita è un casino, qua un casino e già lo so. Lascerò al destino tutto quello che non so. E sto sul bordo del mondo, voglio innamorarmi ogni giorno. Scannarmi per poi rimpiazzarli, ci vuole un secondo. Il destino è uno stronzo con un bellissimo volto. Spero va in porto e chiami presto, non chiude il rapporto. Domani studio e faccio tutto, ma qua c'è un bivio, inferno, paradiso. Ma quale decido? Sbagli domani pagherò, anche se sarà tardi, non so se ci sarò. Dovrei seguire gli altri, ascoltare i grandi. Se sarà tardi, poi ci penserò. Ci penserò domani, domani, domani. Ci penserò domani.